Allora penso di portare alla nostra meditazione di questa mattina il Vangelo che abbiamo letto ieri nella messa, quello dell'incontro di Gesù con Anain, con la vedova che aveva un figlio morto e Gesù fa risorgere. Sono stato così, ho ricevuto questo suggerimento dal fatto di aver visto, di aver letto quello che il Papa ha detto ieri nella meditazione del mattino. Mi è sembrato abbastanza suggestivo su questo Vangelo e quindi poi penso che un po' lo utilizziamo. Fra l'altro mi ha fatto anche ricordare qualche concetto simile che avevo letto in un discorso tra quelli che il Papa ha fatto in Colombia, sempre su Gesù. Allora, proviamo a rileggere questo Vangelo questo episodio del Vangelo che è narrato solo da San Luca. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: "Non piangere." Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: "Ragazzo, dico a te, alzati." Il morto si mise seduto e cominciò a parlare ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: "Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo." Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Ecco, noi leggendo questo episodio della vita di Gesù che narra San Luca, forse ci ricordiamo diciamo, è un episodio del Vangelo che, letto così un po' tra le righe, ci fa comprendere che è un episodio che profetizza la risurrezione di Gesù, la morte e la risurrezione, no? Questo fatto avviene alle porte della città dove anche avverrà la morte di Gesù e anche la sua sepoltura e quindi poi la sua risurrezione. Quindi questo è un episodio che aiuta poi i discepoli e aiuta anche sua madre Maria a prepararsi a quello che accadrà nel momento della morte di Gesù. E questo noi lo teniamo come sottofondo, no? È un Vangelo che, ecco, da un lato prepara i discepoli e anche sua madre e anche Gesù stesso, no? Nel senso che Gesù ha presente quello che accadrà e allo stesso tempo anche ricorda episodi dell'Antico Testamento, cioè degli episodi simili di resurrezione, no? Di figli, di madri, a volte anche così vedove, no? un episodio di questo tipo succede al profeta Elia, a Eliseo. Ecco, e pensate che questo è il vocabolo che usa Gesù quando dice: ragazzo, dico a te, alzati. È proprio il verbo in greco è lo stesso verbo che poi viene usato per la risurrezione di Gesù, no? Bene, allora detto questo, però appunto il Papa ieri nella meditazione, nell'omelia di Santa Marta, ha messo l'attenzione sui gesti di Gesù, no? In particolare lui ha messo in evidenza tre gesti, poi in realtà anche quattro. Io nel leggere il Vangelo ho pensato che noi ne possiamo mettere in evidenza anche altri, perché ci interessa guardare Gesù e anche sì, per poi poterci identificare con lui e cercare di imitarlo nella nostra vita quotidiana, no? In situazioni diverse, ovviamente, no? Una cosa che evidenziava il Papa ieri nella sua omelia è che Gesù, pur essendo con i discepoli in mezzo a una grande folla, ebbe la capacità di guardare una persona, una vedova che andava a seppellire il suo unico figlio. Infatti la meditazione di ieri viene intitolata Guardare con il cuore, è l'aspetto che viene messo in evidenza di Gesù. E nell'Antico Testamento i più poveri erano le vedove, gli orfani, gli stranieri e i forestieri. Nella scrittura si trovano continuamente esortazioni del tipo: abbi cura della vedova, dell'orfano, del migrante. La vedova è sola, l'orfano ha bisogno di cura per inserirsi nella società. E riguardo allo straniero si fa continuamente riferimento all'esilio in Egitto del popolo di Israele, no? E Gesù, quindi questi erano i poveri, più poveri dell'epoca in cui viveva Gesù, no? E la Sacra Scrittura sempre insiste perché li si curi, no? E Gesù, dice il Papa, guarda lì, guarda con il cuore, cioè non si fa distrarre da tutta la folla, guarda la singola persona. Ecco, Gesù fa così, poi evidentemente noi abbiamo anche in mente come fa il Papa, che a volte si trova nella folla, tantissima gente, però poi quando riesce a incontrare le persone, che so, per esempio quelli che trova in prima fila nell'udienza di Piazza San Pietro, riesce, insomma, ecco, a stare con ciascuno, dare retta a ciascuno. A un certo punto individua tre parole che ci aiutano a capire che cosa ha fatto, no? Per stare accanto alla vedova, per andare sulla stessa strada. Innanzitutto ebbe compassione. Si legge infatti che vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei. In effetti, noi, tornando sul Vangelo e guardando noi Gesù, come ti comporti tu Gesù, e cercando di imparare noi da questo Vangelo come dobbiamo fare nel nostro rapporto con le persone che incontriamo anche ogni giorno, vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse non piangere. Sono tre azioni che accadono già solo in una prima frase dell'Evangelista. In effetti si tratta di guardare, no? Di guardare le persone con con attenzione, con interesse, lasciandoci, direi, sì, cambiare da loro, lasciarci, non andare avanti, diciamo così, con il nostro programma già fatto, no? Con il nostro percorso prestabilito. Gesù cambia un po' il suo programma, no? E nel vedere quella persona, pensiamo che questo tuo atteggiamento, Gesù, di guardare le persone, di guardarle dentro, no? E anche di prenderle dentro di te, di lasciarti cambiare la vita, possiamo dire così, dalla loro presenza, è una cosa che ci può aiutare tanto. Noi possiamo dirti nella nostra preghiera anche all'inizio della giornata o quando andiamo alla messa o negli incontrati nell'Eucaristia, possiamo affidarti tutte le persone che vedremo oggi, no? Che incontreremo sulla nostra strada oggi e ti chiediamo di guardarle con la stessa attenzione con cui tu stesso guardi questa vedova e poi tutti, no? Uno sguardo che si lascia cambiare dentro. Infatti dice San Luca, il Signore fu preso, vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei. A me piace questo verbo al passivo, no? Fu preso da grande compassione per lei. È come una cosa che il Signore lascia che accada dentro il suo cuore, dentro la sua anima. Cioè si lascia coinvolgere, no? Si lascia coinvolgere da un sentimento forte, no? Si lascia coinvolgere. Non chiude il cuore, non lo rende duro, non lo rende freddo. Anche a volte può capitare alle persone. Diciamo che può capitare anche a noi, magari senza volerlo, no? Senza esserne del tutto consapevoli che chiudiamo il cuore magari per soffrire un po' di meno, oppure perché, sì, perché effettivamente poi è pesante nel senso di impegnativo, no? Portarci le persone sulle spalle, no? E portarci le persone dentro al cuore, perché prendere dentro di noi anche le situazioni difficili delle persone, il dolore, no? E allora può capitare, no? Che noi tiriamo dritto, no? Il Papa ieri diceva, la compassione, spiegava, è un sentimento che coinvolge, un sentimento del cuore, delle viscere, coinvolge tutto. Soprattutto non è lo stesso della pena. Questo approfondimento, ci può aiutare questa distinzione, no? Di chi dice peccato, povera gente. No, non è lo stesso. La compassione infatti coinvolge, è patire con patire, no? Soffrire insieme. E Gesù si coinvolge con una vedova e con un orfano. L'orfano in realtà è defunto, no? Però è interessante anche questa annotazione, si lascia coinvolgere dalla vedova e dall'orfano defunto. Qualcuno, il Papa diceva, potrebbe obiettare, ma tu hai tutta una folla qui, perché non parli alla folla? Lascia, la vita è così, sono tragedie che succedono, che accadono. È molto anche insomma, interessante e simpatico il Papa nel parlare perché effettivamente questo modo di reagire di fronte alle tragedie è molto comune, no? Invece no, per lui erano più importanti quella vedova e quell'orfano morto che la folla alla quale lui stava parlando e che lo seguiva. Perché, ha spiegato il Papa, il suo cuore, le sue viscere si sono coinvolte. Il Signore con la sua compassione si è coinvolto in questo caso. Ebbe compassione. Allora, per noi che cerchiamo di di conoscere Gesù, di amare Gesù. Per noi che cerchiamo di identificarci con Gesù, di essere una sola cosa con Lui, attraverso la preghiera, attraverso l'Eucaristia, che chiediamo allo Spirito Santo, che questa è una possibile sintesi, no, della cosiddetta santità, no, del cammino di santificazione nella Chiesa, in mezzo al mondo. Cioè, chiediamo allo Spirito Santo che forma in me, Gesù, compi la tua opera, e anche lo chiediamo per tante altre persone, no? Per persone che conosciamo, che amiamo, che seguiamo anche nello sviluppo della loro vita cristiana, no? Che lo Spirito Santo scolpisca in loro il Cristo, no? Che Lui desidera che ciascuno di noi sia. Ricordate che con questa immagine della scultura, no? Per esempio, e San José María sicuramente non è l'unico, ma che usava questa immagine, e lui, parlando anche della direzione spirituale, diceva: il modello, pensate a uno scultore che si mette lì a modellare la creta, no? Il modello è Gesù Cristo, no? Quindi non altre persone, e colui che modella, il modellatore, lo scultore, è lo Spirito Santo. Ed è una verità profonda, no? Che non dobbiamo dimenticare nella vita cristiana, è così, no? Allora noi che desideriamo seguirti, Gesù, nel cammino della nostra vita, ti guardiamo e ti chiediamo: aiutaci con la tua grazia, aiutaci, Dio Spirito Santo, a non avere paura di lasciarci prendere dalla compassione, no? E come hai fatto tu, fu preso da grande compassione per lei. E poi che cosa fa? Qui il Papa, sì, poi lo dice dopo, no? In realtà mette prima l'altra azione, la seconda parola, dice: il Gesù si avvicinò. In realtà prima le dice qualcosa, poi il Papa lo cita dopo. Si avvicinò, la compassione lo ha spinto ad avvicinarsi. Ha spiegato Francesco: avvicinarsi è segnale di compassione. Io posso vedere tante cose ma non avvicinarmi. Forse sento un dolore, ma povera gente. E invece avvicinarsi è un'altra cosa. E il Vangelo aggiunge un dettaglio: Gesù disse non piangere alla donna. Il Papa ha rivelato: a me piace pensare che il Signore, quando diceva questo a quella donna, l'abbia accarezzata. Egli ha toccato la donna e ha toccato la bara. Bisogna avvicinarsi e toccare la realtà, toccare, non guardarla da lontano. Questo è il frutto è un bellissimo frutto della preghiera, dell'orazione fatta come, ecco, secondo la composizione del luogo, no? Come insegnava Sant'Ignazio di Loyola, e come anche San José María ha colto questo insegnamento tradizionale, diciamo, del fare l'orazione, e lo ha anche divulgato con quel modo di dire: dobbiamo metterci nelle scene del Vangelo come un personaggio tra gli altri, no? E questo mettersi dentro, ecco, effettivamente il Papa guarda questa scena nella sua orazione, e si immagina che Gesù non solo tocca la bara, ma anche tocca, accarezza questa donna. Gesù quindi ha guardato la donna, si è lasciato prendere da tanta compassione, da grande compassione, dice l'Angelo. Poi le ha detto non piangere, effettivamente e poi si è avvicinato e ha toccato la bara. Sono già, vedete, in poche parole, quattro azioni di Gesù. Noi possiamo pensare, parlando con te Gesù, che pensando alle nostre, ai nostri rapporti con le persone, no? Non basta guardare, lasciarsi, come dire, in qualche modo ferire, possiamo dire così, no? Dalle persone, lasciarci prendere dentro dalla compassione, dal patire insieme, e dobbiamo anche avvicinarci, anche di dire qualcosa, no? Dire qualcosa. Non è che sempre occorrerà dire qualcosa, perché a volte basta uno sguardo, basta appunto un prendere per mano, basta anche un gesto di affetto ed è dire tanto, eh? Però sono bellissime queste due parole di Gesù, non piangere, dette alla donna. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Vedete come questo toccare la bara di Gesù subito fa come fermare tutta la scena. È potente questo tocco di Gesù. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. E il Papa diceva, accade poi il miracolo della risurrezione del figlio della vedova, e Gesù non dice arrivederci, io continuo il cammino, ma prende il ragazzo e cosa dice? Lo restituì a sua madre. Ecco allora la terza parola chiave, restituire. Gesù fa dei miracoli per restituire, per mettere al proprio posto le persone. Ed è quello che ha fatto con la redenzione. Dio ebbe compassione, si avvicinò a noi nel suo figlio e restituì tutti noi alla dignità di figli di Dio. Ci ha ricreati tutti, no? È bellissima questa immagine, questo applicare, questo gesto di Gesù che restituisce il figlio a sua madre, dopo avergli detto alzati, cioè risorgi. Il morto si mise seduto, cominciò a parlare, dice il Vangelo, ed egli lo restituì a sua madre. È quello che ha fatto Gesù con tutti noi, con la redenzione, no? È bello anche per noi, per il nostro voler bene alle persone, il nostro diciamo entrare nella loro vita, il nostro farli entrare nel nostro cuore, il prendere sulle spalle le loro situazioni e desiderare di fare qualcosa per ricostruire, no? Per sistemare, per redimere. Lo facciamo, cerchiamo di farlo sempre con l'aiuto di Gesù. No, noi non siamo, cioè, non possiamo nulla senza di te, Signore, quindi senza l'aiuto della tua grazia, senza la protezione di Maria, il suo sorriso, la sua benedizione materna, cioè non possiamo nulla senza la tua grazia. Quindi andiamo alla messa, andiamo insomma alla forza dei sacramenti, però anche sappiamo che, come ci ricordava il padre nella sua visita a Milano, negli incontri che abbiamo avuto, anche ci diceva la forza che ha la nostra amicizia, il fatto dell'amicizia personale, attraverso la quale passa Gesù, passa la sua forza, no? La sua grazia. Quindi veramente crediamo, Signore, che noi cristiani siamo un altro Cristo, lo stesso Cristo, e quindi veramente tu attraverso di noi ti fai presente. Io appunto vi dicevo che nel leggere le parole della meditazione di ieri del Papa a Santa Marta mi tornava in mente qualche parola simile, si vede che fa parte proprio della sua meditazione del Vangelo, che diceva ai vescovi, al direttivo del CELAM, la conferenza episcopale latinoamericana, quando li ha incontrati a Bogotà, no? E lui, erano parole che mi hanno colpito e senz'altro aveva appena detto a loro che non possiamo fare nulla se non stiamo con Gesù, se non ci ritiriamo con lui in un luogo appartato come Gesù invitava i discepoli, no? E dove si ritrova l'unità sempre in Gesù, ciò che rende permanente la missione non è l'entusiasmo che infiamma il cuore generoso del missionario, benché sempre necessario, piuttosto è la compagnia di Gesù mediante il suo spirito. Se non partiamo con lui in missione, ben presto perderemo la strada, no? La ragione del nostro andare non è lui. Se la ragione del nostro andare non è lui, sarà facile scoraggiarsi in mezzo alla fatica del cammino o di fronte alla resistenza dei destinatari della missione o davanti ai mutevoli scenari delle circostanze che segnano la storia o per la stanchezza dei piedi dovuta all'insidioso logorio provocato dal nemico. Quindi il contesto in cui dice queste parole è stare con Gesù. Poi diceva, il Vangelo è sempre concreto, mai un esercizio di sterili speculazioni. Conosciamo bene la ricorrente tentazione di perdersi nel bizantinismo dei dottori della legge, no? Di domandarsi fino a che punto si può arrivare senza perdere il controllo del proprio territorio delimitato o del presunto potere che i limiti garantiscono, no? Sta parlando, dice parole forti, a persone che, a vescovi, quindi che hanno una missione molto, molto importante, no? Uscire sì, ma con Gesù. E diceva sì, si parla della Chiesa che deve uscire. Il Vangelo parla di Gesù che, essendo uscito dal Padre, percorre con i suoi campi e i villaggi di Galilea. Non si tratta di un percorso inutile del Signore, mentre cammina incontra. Quando incontra si avvicina, quando si avvicina parla, quando parla tocca col suo potere, quando tocca cura e salva. Condurre al Padre coloro che incontra è la meta del suo permanente uscire, sul quale dobbiamo riflettere continuamente e fare un esame di coscienza. Uscire per incontrare, senza passare oltre, chinarsi senza noncuranza, toccare senza paura. Si tratta di mettersi giorno per giorno nel lavoro sul campo. E bisogna rivolgersi alla persona nella sua situazione concreta, da essa non possiamo distogliere lo sguardo, la missione si realizza sempre in un corpo a corpo. Allora, io ringrazio il Signore di queste parole così, così belle, così forti del Papa, così concrete, no? Che ci aiutano ad entrare dentro nel Vangelo e a cercare, con l'aiuto della grazia di Dio, di viverlo quotidianamente.